Il rap nasce come un suono di protesta, in tre semplici strumenti il suono di un'intera orchestra, e come una freccia scoccata da una balestra, un suono che arriva in camera e sfonda la tua finestra. Nel corso degli anni ho sentito parlare persone da tutto il mondo per potersi lamentare di una condizione che poteva alterare la pazienza dei santi e fare poi cambiare tutto quanto quello in cui si è sempre creduto, e anche oggi un altro mito è caduto, ma almeno c'è sempre stato chi si è sempre rialzato subito dopo nonostante il colpo subito. Oggi invece spiegami cosa cazzo diffonde, soldi, droga, spaccio e come si arrotonda. Ascolto questi rapper che d'altronde non hanno cervello e quel poco che hanno si nasconde. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante aveste radici lunghe come una pianta. Ormai chi canta purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe soltanto spenta. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante aveste radici come una pianta. Ormai chi canta purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe solo spenta. Trovi in giro delle sagome basse che nonostante tutto sparano dalle loro casse. Musica che per loro può essere fuori classe e che per loro alternative si distingue dalle masse. Ma una massa nuova è stata creata di completi ignoranti che vivono senza nessuna prova data. Ogni loro difetto in 5 minuti già scovata, poi se ne vantano come fosse una cazzata. La testa di queste persone purtroppo si distingue dal loro cervello che purtroppo langue di tutto in tutto. Usano soltanto altre lingue senza sapere che l'italiano si distingue. Per loro infangare tutto è motivo di vanto, preferiscono macchiarsi di sangue il manto. Si spostano sempre in base a come gli soffia il vento. Non dite di no perché io non mento. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante avesse radici lunghe come una pianta. Ormai chi canta purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe soltanto spenta. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante avesse radici lunghe come una pianta. Ormai si canta, purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe solo spenta. Alcuni poi si vantano di essere cresciuti male, quasi come volessero addirittura giustificare il fatto che loro hanno vissuto tutto questo male, raccontandoci di quanto hanno mandato in ospedale. Egoisti che non pensano a quanto il mondo sia grande, lo vedo come una finita distesa di lande. Non pensano che il male non solo a uno prende, credo che solo il loro cervello apprende. A quando poi hanno finito di sparlare su tutte le cose che la vita gli fa fare, tornano e trovano addirittura il tempo per litigare contro qualcuno che contro di loro dice. Nessuno e nessuno in questo mondo smerdato, sbucato fuori dal culo di un paese fatato. Il tuo mondo nella testa lo hai disegnato, peccato che purtroppo ancora non ti sei svegliato. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante aveste radici lunghe come una pianta. Ormai chi canta purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe solo spenta. Il rap è morto, ormai non ha più fondamenta, nonostante aveste radici lunghe come una pianta. Ormai chi canta purtroppo si lamenta di ogni fiammetta di paglia che andrebbe solo spenta.